Marco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi raccontiamo la storia di una donna che all'inizio degli anni 60, poco più che bambina, inventa un genere e ne detiene da allora il primato. La nostra protagonista di oggi è Pamela Debar, considerata la prima groupie della storia. Cos'è una groupie? Beh, è una categoria che noi cantanti non finiremo mai di benedire in eterno. Deriva dal termine group, inteso come gruppo musicale, identifica fan molto giovani, anche minorenni spesso, le quali, oltre a amare appassionatamente la musica di un certo musicista, lo seguono nei loro tour, cercando in tutti i modi di conoscerlo meglio per poi diventarne amiche intime, condividendo la loro stessa vita sregolata e assecondando i desideri sessuali della star in questione. Queste ragazze sono state protagoniste della rivoluzione culturale e sessuale degli anni 70 e sono diventate un vero e proprio fenomeno sociale. Pronto? Sono il redattore musicale di Rolling Stone. Sei William Miller? Sì, sono io. Penso che dovresti scrivere per noi. Se vuoi diventare un vero giornalista, non puoi essere amico delle rockstar. Facci apparire fichi. Guarda che sarà una brutta storia, ti offriranno da bere. Non prendere droghe! Non prendere droghe! Ti faranno volare gratis con loro. Hey, David Bowie! Incontrerai delle ragazze. Noi non siamo groupies, non abbiamo rapporti sessuali con loro. Solo pompini, nient'altro. Amen! L'attrice Kate Hudson, che veste i panni della groupie Penny Lane nel film quasi famoso di Cameron Crowe e riceve la nomination all'Oscar per la sua interpretazione, lei ha studiato in maniera approfondita il fenomeno e ne ha ottenuto alcune interessanti riflessioni. Posso affermare, dalle ricerche che ho fatto, che queste ragazze non sempre sapevano quello che facevano, soprattutto le più giovani, che si andavano a cacciare in situazioni anche molto pericolose. Però se chiedete a chiunque di loro se ha rimpianti, la maggioranza risponderebbe: no, non ne ho, mi sono divertita moltissimo e rifarei tutto. Molte donne oggi trovano questa specie di sfruttamento delle groupie da parte dei rocker un vero degrado. Ma a quel tempo c'era moltissima libertà, era un periodo rivoluzionario. Queste ragazze volevano essere parte di qualcosa di grande come il rock. Allora, quale degrado? Diciamo che se è vero che quando un uomo corteggia una donna cerca di metterla, di renderla partecipe di un bell'universo interiore che ha, i cantanti sono avvantaggiati perché il loro bell'universo interiore è quello che viene pubblicato nelle loro canzoni, per cui si tratta solo di fare, grazie a delle canzoni, il 90% della strada del corteggiamento che gli altri fanno usando più tempo. Comunque, Pamela Ann Miller, questo è il nome da ragazza di Pamela Debar, nasce a Los Angeles il 9 settembre del 1948. Ha un'infanzia felice, però fino da piccolissima ha una passione travolgente per due cose: i ragazzi e la musica. La sua radiolina, perché in quegli anni la musica si ascolta con la radiolina, divenne la sua appendice. E le storie che i cantanti le sussurrano all'orecchio, vedete come vi ho detto prima, diventano le sue storie, la sua vita. E prende anche i testi delle canzoni molto sul serio. I'll never let you see. Cammina sotto la pioggia piangendo mentre ascolta questa canzone che è Crying in the Rain degli Everly Brothers, e si costruisce il suo film, immagina di aver rotto col suo fidanzato e poi arriva davanti al televisore di casa sua guardando un film del cui protagonista è innamorata alla follia, insomma sogni di ragazze, e il suo primo ragazzo ce l'ha in terza media, ovviamente è un suo compagno di scuola, un certo Darrell Arena, e lei scrive sul suo diario: 28 maggio. Quando Darrell mi mette il braccio muscoloso intorno alla vita, mi sento morire. Spero non sia da stupidi mettere il braccio intorno alla vita di un ragazzo che ha già il suo intorno alla tua. Wow, è proprio figo. Se domani non lo vedo, muoio. È l'estate del 1962, lei ha 14 anni e il rock and roll diventa per lei di carne e ossa, perché nel garage che si trova dall'altro lato della strada iniziano a provare un gruppo, i Rainbow Rockers, un gruppo di ragazzini rock, quindi Darrell Arena finisce già nel dimenticatoio perché non sa suonare, e lei impazzisce per quelli che a lei sembrano già degli uomini fatti, perché suonano rock proprio davanti alla finestra della sua stanza. Naturalmente si fidanza subito con Robbie, che ha ben 18 anni ed è la chitarra solista del gruppo, e si dirà molto spesso di quanto la chitarra elettrica sia in qualche modo la prolunga fallica che tanto piace alle donne. Il rock and roll si impadronisce definitivamente di lei, e la storia dura poco più di una canzone, ma l'amore per la musica sarà una passione senza via di ritorno. E arriviamo al favoloso 1963, l'anno in cui Pamela, quindicenne, entra in contatto con i Fab Four di Liverpool, i Beatles. La Beatlemania si impossessa di lei, come del resto di altri milioni di persone, e la trasforma in una perfetta scema, cioè nel senso viene totalmente assorbita da questa mania. Anni dopo lei stessa si definirà così nei suoi libri. Il prototipo dell'uomo perfetto per lei è Paul McCartney. L'Inghilterra, che prima di allora non è praticamente mai esistita, diventa la Mecca a cui indirizzare ogni suo pensiero. 10 febbraio. Ciao diario. Paul, sei fantastico, veramente favoloso. Ehi, mi dici come fai ad essere così meraviglioso, amore? Mi sento la più idiota del mondo perché do letteralmente di matto per te. Quello che succede quegli anni per i Beatles è un fenomeno che si ripeterà altre decine di volte, ma mai con quella globale intensità. Insomma, quando qualche anno dopo John Lennon disse la famosa incriminata frase che i Beatles erano diventati più famosi di Gesù Cristo, aveva perfettamente ragione, perché tutto il mondo, dalla critica al pubblico e soprattutto alle ragazzine, si innamorò dei Beatles. Nacque una vera e propria mania, c'era la Beatles penna, il cuscino a forma di Beatle, qualsiasi cosa avveniva tramite i Beatles. Le vespe venivano equipaggiate con delle parrucche che riproponevano la famosa zazzera a caschetto dei Beatles, e le ragazze in questione per esempio si dividono in Beatles Sweetest, cioè gruppi di ragazze che vanno in giro a quattro alla volta, in quanto ognuna di loro si autoproclamava fidanzata di un Beatle. Katie era la mia Giorgia amica, Linda la mia John amica e Stevie la mia Ringo amica. Eravamo in perenne stato di Beatles sketch. Ciascuna di noi faceva la parte del suo Beatle e di se stessa. Ci invitavamo alle feste e ai concerti, cenavamo con loro in magnifici ristoranti, ci giuravamo amore eterno in un perfetto accento di Liverpool. Inventavamo delle storie incredibili che finivano sempre con noi che facevamo l'amore con i nostri rispettivi Beatles e odiavamo a morte le loro fidanzate. Jane Asher, la fidanzata di Paul, la chiamavo faccia di porco. L'incredibile epopea dei Beatles è appena cominciata, è in ascesa continua, però è vero che le fan crescono in maniera velocissima e pochi mesi per loro sembrano quasi anni a quell'età. Così alcune ragazzine si stancano di essere Beatles Sweetest, magari trovano un fidanzato in carne e ossa, in genere alle più carine succede quello, e continuano ad ascoltare dischi dei loro preferiti, ma sono un po' meno invasate. Ma non Pamela, perché per lei la musica e il rock and roll tutto quello che gravita attorno sono assolutamente eccitanti. Così perde alcune amiche che stanno crescendo, stanno pianificando la loro vita borghese con matrimonio e figli, e perché lei continua a studiare con risultati appena sufficienti, si fidanza con un certo Bob, ma ciò non toglie che c'è sempre una rockstar nel suo cuore, che è Paul McCartney. Ma come se non bastasse, invece di accontentarsi di un solo innamorato immaginario, se ne trova un altro, perché si innamora perdutamente di un altro grande astro nascente, Mick Jagger. Inizia così per lei l'era dei Rolling Stones. Sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando Pamela DeBar, la prima groupie della storia, di quella generazione di ragazzine innamorate pazze di una o di un'altra rockstar o di una band, al punto da seguire i loro idoli durante i concerti per cercare di conoscerli e soprattutto di condividere con loro una vita fatta di eccessi di ogni genere. Ricordiamoci che siamo negli anni della liberazione sessuale e le groupie diventano un vero e proprio fenomeno sociale a cavallo tra gli anni 60 e 70, quando nascono i grandi gruppi musicali come i Beatles e i Rolling Stone e partono le grandi tournée mondiali. Sentiamo cosa ricorda oggi lei. Era un modo per mostrare apprezzamento alle persone che ti facevano sentire tanto bene con la loro musica, dando loro in cambio qualcosa. Beh, avete capito. Io li ho amati, questi idoli rock. Volevo avere con loro una relazione duratura, lunga. Vedevo mia madre che si prendeva cura di mio padre e anche io volevo avere quello stesso tipo di attenzioni da moglie, ma volevo farlo ad una rockstar. Pamela ha 14 anni quando si innamora di Paul McCartney e con le sue amiche vive una vita parallela a quella reale, costruendosi una storia che la vede protagonista assieme al suo adorato Paul. Ma purtroppo non riesce mai a vedere dal vivo i suoi miti. A un certo punto però scopre che l'altra band che va per la maggiore in quel momento e per la quale lei vive un'altra vita parallela, i Rolling Stone, hanno in previsione un concerto proprio lì a Los Angeles e faranno tappa all'Ambassador Hotel, quindi saranno nella sua città, e decide all'istante che Mick Jagger è proprio l'uomo che fa per lei, deve assolutamente conoscerlo. Beh, i Rolling Stone sono l'altra faccia della medaglia, e anche se tra i Rolling Stone e i Beatles c'erano stima e amicizia, naturalmente fu costruita una rivalità accesa. I Beatles erano in qualche modo più tranquillizzanti perché al di là dei capelli un po' lunghi, ma avevano delle facce pulite e cantavano soprattutto all'inizio di buoni sentimenti. I Rolling Stone viceversa partirono con canzoni come I Can Get No Satisfaction, cioè canzoni in cui l'insoddisfazione, le istanze sessuali e l'avvicinamento alle droghe arrivarono molto prima di quanto poi colsero anche i Beatles. Diventare una fan sfegatata dei Rolling Stone e una groupie innamorata di Mick Jagger trasforma Pamela in una traditrice, perché per la maggior parte delle sue compagne vigeva ancora la legge della Beatlemania, della Beatlemania, e in particolare Katie e Steve, le sue amiche del cuore, che non le perdonano questo cambio improvviso. Pensavamo di conoscerti alla perfezione, sei sempre stata una fan dei Beatles e adesso sei una fan dei Rolling Stones. Non riusciamo a capire come hai potuto. Gli Stones sono luridi e sciatti e ci fanno vomitare. Quando ripensiamo che ti firmavi Paul and Pam, non riusciamo a credere di avere davanti la stessa ragazza. Non ti odiamo, ma francamente non ci piaci più. Katie e Stevie. Beh, un giornale titolò: dareste vostra figlia a uno dei Rolling Stone, come a dire che l'incubo maggiore peggiore di ogni genitore era che la propria figlia andasse con uno alla Rolling Stone. Questo apre una vera e propria lotta tra fan che divide anche le amicizie. Pamela risponde per le rime alle sue ex amiche e questi sono sempre stralci presi dal suo diario. Ho delle risposte valide alle vostre ridicole obiezioni. Paul e Mick non possono essere paragonati. Sono due tipi antitetici a cui corrispondono due antitetici tipi di amore. Non ho mai messo gli Stones davanti ai Beatles. Ho solo permesso che diventassero anche loro parte della mia vita. I Beatles resteranno per sempre il massimo, ma anche gli Stones. Oh, voi proprio non capite. Fanno musica diversa. Non possono essere paragonati. Pamela lascia le sue dolci Beatle amiche senza parole, non hanno idea di quanto sia presa dai luridi e sciati Rolling Stone, come li definiscono loro. La prorompente sensualità di Mick Jagger la manda in estasi, e non solo lei, perché insieme a una folla immensa di ragazzi scalpitanti attende dal tardo pomeriggio fino alle 11 del mattino successivo per riuscire a prendere i biglietti del concerto che gli Stones terranno di lì a un mese a Los Angeles. Lei freme nell'attesa, sente crescere dentro di sé il desiderio delle labbra carnose di Mick Jagger, sogna tutte le notti che lui la baci con passione e che lui si innamorerà perdutamente di lei, perché vive in una costante tempesta ormonale, e disegna con i pastelli a cera quello che immagina essere l'apparato genitale del suo idolo. Poi, visto che le è venuto proprio bene, lo ricicla come progetto di arte moderna a scuola, quindi prende due piccioni con una fava, perché è il suo professore le dà il massimo dei voti. Gli Stones arrivano a Hollywood l'11 maggio 65. Pamela si sta preparando da un mese a quell'evento. Viene buttata fuori dalla scuola per il suo aspetto assurdo e questo la inorgoglisce, perché vuol dire che è sulla strada giusta, è la conferma che ha il look giusto per i Rolling Stones. E con i suoi amici sfreccia la RCA, la loro casa discografica, nella speranza che siano lì a registrare. E loro effettivamente sono lì. Li aspetta trepidante fino a quando non escono e in trance come una zombie segue Mick Jagger nel parcheggio. Jagger deve fare manovra e le chiede se può aiutarlo. Ero spiazzata dal fatto che mi avesse rivolto la parola e il solo fatto di essere in sua presenza mi aveva trasformata in una ritardata mentale con la bocca spalancata. E così gli feci tamponare due auto prima di riuscire ad uscire da lì. Nonostante questo, ci chiese se gli facevamo strada all'Ambassador Hotel. E così li portammo al Wilshire Boulevard con Satisfaction a tutto volume. Chissà se è una leggenda questa di Mick Jagger che fa manovra senza un autista con Pamela che lo aiuta, ma comunque le speranze rimangono un sogno, perché all'arrivo gli Stones si rinchiudono nel bungalow e terrorizzano i fan con urla tremende. Jagger non si innamora di lei, però non fa niente, perché questa esperienza trasforma Pamela in un topo famelico in cerca del formaggio. Il Sunset Strip, la via più indie Hollywood, diventa il suo chiodo fisso, la speranza di qualcosa di grandioso. Il liceo diventa solo un posto dove prendere il diploma. I ragazzi del suo quartiere le ricordano dei bambinetti che frignano e sbrodolano sui bavaglini, niente a che vedere con i ragazzi di Hollywood, che hanno tutti i capelli lunghi e sono creature straordinarie. La sua nuova vita è lì, deve solo afferrarla. È strano che la sua nuova vita inizi alla commemorazione di una morte, perché il rock vuole le sue vittime. Il 3 agosto del 1966 viene trovato morto per overdose Lenny Bruce, il comico cabarettista famosissimo di Sacratorio, quello che venne arrestato più volte per oscenità, che venne celebrato nel bellissimo film di Bob Fosse, Lenny, interpretato da Dustin Hoffman. E con questo siamo arrivati al punto, e cioè che è la repressione di una parola quella che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti, se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse: vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto, e se continuasse a dire negro, negro, negro, negro, negro, negro, tutti i negri che vede, moro, moro, moro, moro, moro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, finché negro non significa niente, mai più, allora non vedreste più piangere un bambino di colore di 6 anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro. Lenny Bruce è l'idolo dell'America che non ci sta, quella che va controcorrente. È un santo pagano della cultura post-bop, pre-pop, come lo definiscono. Il 21 agosto viene organizzata una commemorazione in suo onore al Eden Memorial Park Cemetery a Mission Hills in California, dove è sepolto. Più di 500 persone sfilano davanti alla tomba di Lenny Bruce e tra di loro naturalmente c'è Frank Zappa, un altro americano che non ci sta, un altro dissidente con il quale Bruce ha fatto il suo ultimo spettacolo. Invece di pregare sulla tomba dell'amico, Frank Zappa sta seduto su uno scivolo nell'area dei giochi per bambini con i suoi figli, indossa pantaloni a zampa di elefante a fiori e enormi scarpe da ginnastica a fiori. Qualcuno lo sta osservando e non gli toglie gli occhi di dosso. Seduta nel prato e vestita con una camicia di velluto rosso e una lunga gonna nera con lo spacco, c'è anche Pamela, che è andata alla commemorazione con le sue amiche. Lei sta guardando il mitico Frank Zappa e pensa che deve assolutamente conoscerlo. E tra poco scopriremo come ci riuscirà. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Pamela DeBar, la leggendaria groupie californiana, la madre di tutte le groupie, famosa per avere assecondato i desideri sessuali di gente come Mick Jagger, Jimmy Page, Noel Redding, una che dava del tuo a Frank Zappa, Kate Moon e Ringo Starr. La sua è una vicenda ambientata nell'America degli anni a cavallo tra i 60 e i 70, un periodo mitico che vede la nascita di grandi band musicali, prime tra tutte i Beatles e Rolling Stones. Ragazzine invasate, innamorate delle rockstar più famose, seguono i concerti e cercano di conoscerli, dividono con loro una vita sfrenata e naturalmente anche il letto. Vengono definite appunto groupies, come racconta Pamela nel video dedicato alla sua vita, Let's Spend the Night Together, che è un titolo emblematico perché, come sapete, è il titolo della omonima famosissima canzone scritta da Mick Jagger e Keith Richards. Sono Pamela DeBar, amante storica del rock e giornalista, e sono la groupie più famosa del mondo. La parola groupie fu coniata da un giornalista inglese in un articolo che uscì nella metà degli anni 60 e che chiamò così le ragazze che passavano il loro tempo con i gruppi musicali. A quel tempo non significava ancora niente questo termine, eccetto lei è col gruppo, lei è col gruppo, ok, sono con la band. Pamela impazzisce letteralmente per le rockstar, il suo amore per quel tipo di musica, la rivoluzione culturale che respira in quegli anni, il movimento di liberazione sessuale, creano un cocktail micidiale che le dà la carica per sfidare il mondo pur di avvicinare i suoi idoli. E lei si trova nel posto giusto perché è nata e cresciuta proprio a Los Angeles e quindi a passeggio con le amiche va nel Sunset Strip, la via più esclusiva di Hollywood, e le capita spesso di incontrare i componenti di qualche band. Beh, una sera le dicono di fare un salto in un nuovo locale, il Bidolidos, che si trova in uno scantinato sotto un palazzo di uffici. Ci suona una band nuova di zecca, si chiamano Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Beh, il locale è pieno zeppo, cominciano a salire due persone, una si chiama Robbie Krieger e l'altra John Densmore, poi arriva uno che si chiama Ray Manzarek, si mette alle tastiere, manca ancora il cantante e i primi tre sembrano tre tizi piuttosto ordinari, ma poi cambiano le cose, come scrive Pamela nel suo diario. Apparve un tizio vestito di pelle nera che si muoveva sinuosamente e riempì lo spazio al punto che tutti gli altri sembravano essere sprofondati in un pozzo di catrame. Quella magnifica visione mi lasciò senza fiato. Qualcuno di nuovo e delle mie parti per cui sbavare. Era un momento storico. Stringeva il microfono quasi fosse una parte vitale del suo corpo e gemeva in modo davvero credibile. Si muoveva con la grazia innaturale di qualcuno che non ha più controllo, tenuto a terra soltanto perché per caso i piedi si trovavano sul pavimento. E soprattutto assomigliava a un dio greco che aveva preso una cattiva strada, con montagne di riccioli scuri e una di quelle facce che rendono i sogni agitati. Cantava con una potente voce di baritono, costellata di ringhi, dolcezza e desiderio indecente. Persi conoscenza. Pamela sviene per la forte emozione e non è l'unica, perché su quel palco sta cantando Jim Morrison, il mitico Jim Morrison, che è uno dei più grandi leader carismatici di una band, è un esponente della rivoluzione culturale, uno dei più grandi cantanti rock della storia, uno che riesce a coniugare la sua maledizione con una carica sessuale che conquista le donne. È uno dei più grandi cantanti della storia, un profeta maledetto, soprannominato il re Lucertona, paragonato a Dioniso, che è la divinità della liberazione dai sensi. Vivrà poi un declino psichico e fisico piuttosto rapido, che lo porterà anche a morire a 27 anni, come molte altre rockstar. Quella notte Pamela diventa una parte fissa del pubblico dei Doors e naturalmente si innamora perdutamente di Jim Morrison, che peraltro è fidanzato con una ragazza dai capelli rossi, ma Pamela ha un piano. Un pomeriggio si presenta al locale dove la band sta provando prima del concerto, si siede nel retropalco con la speranza che Jim arrivi senza la rossa, e questa volta accade proprio quello che lei sognava, perché Pamela è innamorata, quello è il suo Jim, almeno questo è ciò che lei crede, che lui le fa credere per quella notte. Dopo averla fatta salire sul palco con lui, cioè sul palco con i Doors, la porta nel suo albergo. Naturalmente la mattina dopo lei si sveglia, Jim Morrison non c'è già più, come era da aspettarsi. Però non è che lei ci rimane male, perché nessuna groupie pensa di essere sfruttata dal musicista, e tantomeno lei, e soprattutto nessuna groupie può pensare che il suo rapporto col musicista possa essere duraturo, se no si tratta di arrampicatrice sociale, quindi è un'altra categoria. In questo senso è emblematica una scena tratta dal film quasi famoso di Cameron Crowe, in cui Kate Hudson interpreta la groupie Penny Lane. Senti, tu dovresti essere contento per me, non sai quello che mi dice quando siamo soli. Forse è amore. Per quanto è possibile per una persona che ti ha venduto agli Humble Pie per $50 e una cassa di birra. Io c'ero, ero là. Oddio. Mi dispiace. Che marca di birra? Beh, Pamela non si dà per vinta, perché le rockstar a Hollywood nascono come funghi. Morto un papa, se ne fa un altro. Lei la pensa così. L'occasione di conoscere un nuovo personaggio arriva presto, perché con la sua amica Lucy va al concerto del grandissimo chitarrista Frank Zappa. Per una groupie non è difficile conoscere una rockstar, e le due ragazze fanno subito amicizia con Frank. Pochi giorni dopo vanno a trovarlo a casa sua, dove conoscono anche la moglie Gail e la figlia, la piccola Moon. Le ragazze ci sanno fare parecchio con la bambina, e quindi Frank Zappa e la moglie, che stavano cercando una babysitter, se ne trovano due. Così Pamela inizia a frequentare assiduamente la casa degli Zappa. Però non è solo la frequentazione coi VIP che interessa le ragazze, perché la loro passione è la musica. A un certo punto Zappa propone loro di formare un gruppo. Pamela e le sue amiche Linda, Lucy, Christine, Sandra, Mercy e Cinderella diventano, su idea di Frank Zappa, le GTOs, acronimo che sta per Girls Together Outrageously, cioè ragazze insieme oltraggiosamente. Come sentite, insomma, non sono delle grandi cantanti, però la loro stessa presenza così surreale non può che affascinare uno come Frank Zappa, che produce un loro disco mettendoci Jeff Beck alla chitarra e coinvolgendo Ross Stewart. Insomma, parte una cordata di assurda musicalità attorno a queste ragazze. Il gruppo si scioglie dopo il primo album, però l'operazione orchestrata da Frank Zappa rimane emblematica. Loro rappresentano un fenomeno per lo stile trasgressivo, per i testi delle canzoni che inneggiano alla gioia, al sesso libero e anche alle perversioni. Quindi Frank Zappa ci sguazza in tutto questo, e conclusa la parentesi delle GTO, lei continua la sua allegra vita da groupie. Anche perché l'amicizia con Frank Zappa e la sua famiglia è un passaporto per il backstage dei gruppi più importanti della storia del rock. Finalmente conosce bene e quando dico bene, il tanto agognato Mick Jagger. E lo stesso accade con Jimmy Page dei Led Zeppelin, con il batterista degli Who, Kate Moon, e con molti altri. Il programma dura quanto dura, quindi non vi posso fare tutta la lista. Grazie a Frank Zappa, Pamela fa amicizia con un personaggio assolutamente unico. È una ragazza come lei, una groupie di Chicago, Cinzia Albritton, ribattezzata Cinzia Plaster Caster. Il motivo di questo nome è che Cinzia, pur di avvicinare i suoi idoli, inventa un approccio estremamente seducente, perché in cambio del solito rapporto sessuale chiede alla rockstar di turno di poter fare un calco in gesso del suo organo genitale, immortalando per sempre i membri delle più importanti band dell'epoca, quindi creando anche un po' di competitività all'interno delle band. I Kiss le dedicano perfino una canzone intitolata proprio Plaster Caster. Baby's getting anxious. The hour's getting late. The night is almost over. She can't wait. Things are complicated. My love is in her hands. And there's no more waiting. She understands. The blaster. Così zappiana di fare dei calchi di gesso per preservare gli attributi parte da un compito che venne assegnato a Cinzia a scuola. Il suo professore di materie scultore le chiese di realizzare il calco di gesso di un oggetto a sua scelta che le determinasse passione, e quindi ovviamente l'oggetto che determinava più passione era proprio quello, quindi scultura e musica che si fondono. Si potrebbe dire che la terza passione racchiude le altre due, e il primo che accetta di fare il suo calco è proprio Jimi Hendrix, e si dice che in quel caso di argilla ne servì veramente molta. Jimi Hendrix veniva qui in città e io avevo già in mente che cosa gli avrei chiesto, quindi nell'intervallo fra due concerti lo seguì con alcune amiche al suo hotel e gli dissi: siamo le Plaster Casters, perché mi ero inventata un vero e proprio gruppo, e gli spiegai che cosa volevamo. E lui disse: ok, facciamolo. Era molto calmo e rilassato mentre gli facevo il calco. Non ero molto brava perché era la prima volta e dovetti rifarlo. Ma lui disse che non c'era problema. Poi andammo ad un party. Beh, quindi diciamo prima il dovere e poi il piacere. Gli anni però passano per tutti e Pamela ha quasi 30 anni, altri gruppi più giovani insomma stanno per sostituirla, e lei incontra un giovane attore cantante, tra l'altro un marchese, Michael Philip DeBar, noto soprattutto per avere interpretato il ruolo di Murdoch nella serie televisiva MacGyver. I due si innamorano, hanno addirittura un figlio nel 78, Nicholas Dean, divorziano nel 91. Pamela però continua a mantenere il cognome del marito, DeBar, insomma è un cognome interessante da portarsi dietro. La prima gruppi della storia prosegue la sua attività nel mondo che più conosce, quello della musica. Diventa giornalista e scrittrice, perché non è stupida, pubblica 4 libri sulla sua esperienza di gruppi. Viene intervistata recentemente e rivela chi sarebbe la rockstar che inseguirebbe se avesse ancora l'età per farlo. Se fossi più giovane starei addosso a Eminem. Sì, è per quello che dice e per come lo dice, per come si rapporta con il suo pubblico e con il suo mondo. Mi eccita sempre molto la gente creativa in quel modo. Oggi le cose sono molto diverse. Oggi non c'è l'accesso libero ai backstage. Quando io ero una teenager, bastava semplicemente presentarti alla porta dei camerini e ti dicevano: oh, entra, dai! Oggi questa cosa ovviamente non esiste più, e poi la rivoluzione sessuale è morta e sepolta. I ragazzi si sposano giovanissimi. Oggi i groupies si interessano di più delle modelle e degli attori. O dei calciatori. È interessante questa osservazione di Pamela. Il mondo delle groupie è enormemente cambiato. Sono cambiate le dinamiche per cui oggi è impossibile avvicinarsi alle rockstar durante i concerti se non si ha un pass, che è molto difficile da ottenere. A volte la trafila parte da più lontano, cioè devi cominciare a ingraziarti un facchino, un tecnico, per cercare di salire di categoria fino ad arrivare al pass che ti faccia arrivare nel camerino del cantante. Più complicato, quindi è un'esperienza che sembra destinata a non potersi ripetere. Abbiamo con noi Barbara Tomasini, autrice del libro Gruppi, ragazze a perdere. Buongiorno Barbara. Buongiorno Enrico. Volevo che tu ci facessi un confronto tra gruppi straniere e gruppi italiane, gruppi di una volta e gruppi di oggi. Diciamo che fondamentalmente il fenomeno nasce, come ben sai, in America negli anni 60 e 70, quindi insomma l'Italia è stata sempre un po' a rimorchio per quanto riguarda la scena rock. Sicuramente ci sono state i gruppi e i grandi interpreti del rock hanno avuto la loro buona parte di fan, però diciamo ciò che ha creato veramente un fenomeno di costume, che poi ha anche ispirato canzoni, capolavori della musica rock, è una cosa strettamente anglosassone. Parlando dell'oggi, una considerazione che faccio anche nel libro è che diciamo da quando un po' si è iniziato a parlare della morte del rock, anche se comunque a me piace pensare che sia vivo e vegeto. Anche a me. Esatto, è vero che delle cose sono cambiate, cioè, basta frequentare un po', noi che siamo addetti ai lavori, backstage dei concerti, insomma dei nuovi gruppi rock di oggi, spesso si trova un backstage da salutisti e molto poco rock and roll, spesso accompagnati dalle famiglie, cuochi vegani, esatto, ne ho viste, sì, sì. Ecco appunto i beveroni per disintossicarsi e purificarsi, e quindi insomma un po' il fenomeno non ha più la presa di una volta. Sicuramente ancora oggi ci sono delle ragazze che vanno al seguito delle band, però ecco, io direi che il fenomeno vero e proprio si è chiuso un po' con l'era del punk e anche delle grandi band rock degli anni Ottanta, penso per esempio ai Guns N' Roses. Oggi vanno molto di moda le ragazze delle discoteche, le club baby, quindi le ragazze che vanno dietro ai DJ, che sono un po' le star del momento. Certo, ma in questo le rockstar di oggi, tutte brodini di farro e massaggi eccetera, hanno contribuito, cioè sono un po' meno interessanti sessualmente le rockstar con il cuoco e il massaggiatore al seguito, no? Sicuramente tutto quello che circondava la rockstar, l'entourage, lo stile di vita, i giornalisti al seguito, insomma era sicuramente un ambiente molto stimolante da questo punto di vista. Ricordiamoci anche che il fenomeno non a caso nasce negli anni 60, quando c'è anche il periodo della rivoluzione sessuale. Esatto, sessuale e chimica. Pamela racconta proprio questo, c'è una ragazza che fino ad allora era stata educata per sposarsi, fare figli, spesso non lavorare e non studiare, negli anni 60 hanno scoperto la libertà di essere donne, di gestire il proprio corpo, i propri desideri, e chiaramente la rockstar era diciamo il personaggio che più incarnava questa idea di libertà. Aspettative di vita un po' inferiori, ma divertimento assicurato. Grazie Barbara. Grazie Enrico. Grazie, ciao ciao. La storia di Pamela De Bar è una storia di libertà, è la storia di una donna che non ha avuto paura di rischiare e di seguire le sue passioni, che qualche volta è caduta, che è stata in ginocchio, ma ha sempre saputo rialzarsi. Ognuno di noi può rischiare di cadere, ma può anche salire molto in alto. E noi aspettiamo le vostre idee per raccontare anche storie che voi ci suggerirete. Fatelo attraverso i nostri indirizzi, attraverso il profilo Facebook, Twitter, insomma, se volete, mi trovate e ci trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.